later that you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, nella fabbrica di polli l'aria in circolo è sempre la stessa. Cappa e Drago si godono il relax al reparto biologico. Attenzione, i polli Cappa e Drago sono desiderati al controllo uova. Ripeto, i polli Cappa e Drago sono desiderati al controllo uova. Ma come sarebbe controllo uova? Ho paura di sapere di cosa si tratta. Anch'io, però non voglio crederci. Drago, per sbaglio siamo finiti nella lista delle ovaiole e adesso dobbiamo sottoporci all'umiliante rito del controllo uova. Ma io non ho uova al mio interno da farmi controllare, dai. Perché poi, io sì, invece. Scusa, ma com'è che lo fanno? Con i raggi X o con una ecografia? No, nessuno dei due. Usa un sistema tipo meccanico, capito? Empirico e meccanico. Aia. Appunto. Presto! Tenente Drago! Comandante Cappa! Dobbiamo evitare a tutti i costi il controllo uova! Ne va del nostro stesso onore! Può dirlo forte, Comandante Cappa! Presto! Tenente Drago! Ha conservato quegli slippini di acciaio inox che le avevo regalato per il compleanno? No, Comandante Cappa, mia moglie li ha buttati via, scambiandoli per materiale sadomaso, e mi ha pure riempito di botte. Quando si è sposati è così, Comandante Cappa. Ma chi lo dice, Tenente Drago? Allora bisogna trovare un piano di riserva per lei, perché io gli slippini di acciaio inox li sto indossando proprio ora. Sentito? Beato lei! E io come farò? Purtroppo dovrà sottoporsi a un controllo uova. Mai! Ne va del mio stesso onore! E poi, come ci torno a casa da mia moglie? Tenente Drago! Sua moglie si trova a 190 anni luce da qui! Non lo verrà certo a sapere! Non ci avevo pensato! 1787 und es ist Nacht. Ich habe kein Geld und fühle mich schwach. Zum Glück haben sie mir eine neue Komposition aufgetragen. Ich komponiere sie heute Nacht und morgen früh ist erledigt. Die vier Sätze der kleinen Nachtmusik entsprechen den vier Sätzen der klassischen Symphonie. Die vier Sätze der kleinen Nachtmusik entsprechen den vier Sätzen der klassischen Symphonie. Ach du Scheiße, andere Melodie. Und die Matratze, und die Matratze, und die Matratze ist das Beste, was es gibt. Ja, das ist gut. Fertig. La fabbrica di polli. Allora ragazze, non siate timide. Il controllo uova lo facciamo per il bene vostro e per quello delle vostre uova. D'accordo, è un po' invasivo, ma non crediate che per gli operatori sia un lavoro piacevole, eh? Siete tante e siete anche tutte nervose, per cui stiamo procedendo un po' rilento, eh? Ehi, ma cosa ci fate lì sopra voi due? No, fermate il nostro trasportatore, presto! Ma Cappa, Drago, ma cosa fate sul nastro che porta le galline al controllo uova? Non lo so, chiedilo ai tuoi capi, È la solita disorganizzazione della fabbrica. Però adesso se la prendono con me, Io vado in sbattimento. No, ma perché se la prendono con te? Ma perché io ho dovuto fermare il nastro e di conseguenza diminuire la produzione. Adesso mi fanno mazzo così, eh. Vabbè, ma la colpa è loro. Perché ci hanno caricati a forza sul nastro? Noi non siamo polli, si vede anche a occhio nudo, dai. Ancora? Insomma, ma questo lo dite voi, vabbè, dai. E comunque avrei fatto meglio a far finta di niente e lasciarvi andare. Avrei avuto meno grane, no? Vabbè, dai. Ma smettila, avremmo comunque fermato la produzione una volta arrivati all'area di controllo. Come puoi pensare che l'operatore ci controllasse come se fossimo normali gallino vaiole? Dai, ti sembriamo due gallino vaiole. Ma scusa, anzi... Ti sembriamo due gallino vaiole? Ti sembriamo due che fanno le uova? Cioè, ti sembriamo due che si fanno mettere un dito nel culo? No! Non funziona. Non funziona. Hi folks, non fatevi distrarre dalle facili attrattive del sesso fai da te e diventate anche voi polli tantrici. Incredible polli tantrici. Vi insegneremo a fare l'amore senza muovervi, immobili, come se foste morti. Incredible morto che fa l'amore. E la vostra gallinella impazzirà di piacere. Per fare sesso tantrico è necessaria tanta pazienza. Anzi, tantra pazienza. Incredible battuta scema. I polli Hare Krishna sono pronti ad accogliervi per introdurvi al magico mondo dell'amore universale. Incredible Universal Love. Senti, Drago, le onde del mare. Eh sì. Beh, finte naturalmente, però sembra di essere lì. Scusa, ma anche i gabbiani sono finti? Beh, certo. E perché mi hanno cagato sulla giacca allora? Dai, Drago, goditi la saletta New Age del reparto biologico. Perché pensi sempre alla cacca d'uccello? Non tu? È che ci penso, è che ne sono pieno, quindi non è che... Dai, beviti farlo. Il tuo Bellini e sta zitto. Sì, vabbè, ma qui continuano a portare dei Bellini senza che nessuno li ordini. Sarebbe anche buono il Bellini, se almeno lo facessero con lo champagne. Questo è col prosecco. Il folle Ferrari con lo champagne? Oh, lastre, che sbattimento! Ah, Pollo, vuoi un Bellini? E con lo champagne? No, è col prosecco. Allora no, grazie. Ma cosa c'è? Sei di nuovo in sbattimento? Per il calo di produzione? È quasi. Cioè, forse peggio. Sono andato lì a dire che avevano sbagliato mettere voi due sul nastro, no? E sono andato lì e quei primati che ci sono al controllo mi hanno afferrato e mi hanno fatto un'ispezione intima. Un'ispezione intima? Ma no. Per vedere come andava l'uovo. Ma che uovo, dico io? Io sono un maschio e anche in una certa età, eh? Altro che uovo. Infatti poi non trovavano l'uovo e mi hanno ispezionato per mezz'ora. Ma come mezz'ora? Eh beh sì, non trovavano l'uovo. Vabbè, ma scusa, intanto che loro facevano il loro sporco lavoro, tu che cosa facevi? Vabbè, io ripassavo le tabelline. Come sarebbe ripassavi le tabelline? Vabbè, vorrei vedere il turno a posto. Vabbè, ma povero Polo, dai, beviti un Bellini, falla finita. Ma senza champagne non è un vero Bellini, dai. E poi ho bisogno di riposo, eh. Questa è stata una giornataccia per me. Attenzione, il pollo in sbattimento è desiderato a rapporto da Gaston. Ripeto, il pollo in sbattimento è desiderato a rapporto da Gaston. Ma no, Gaston, no! Eh oui, ba-ba-ba-ba. Je suis Gaston, je veux ta-ta-ta de poulet en sbattimento. Ba-ba. Che cosa succederà adesso? Il mastodontico Gaston farà un sol boccone dello stanco e rassegnato pollo in sbattimento? Ma no, Gaston, no! Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo gastronomico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com. In the middle of nowhere. Hello.